Essere e benessere di Nicoletta Carbone. La sveglia suona spesso troppo presto. Le giornate sono piene di cose da fare. Si esce di casa correndo, con la speranza di non aver dimenticato nulla. Magari ancora assonnati sleghiamo la catena, montiamo in sella e partiamo a ritmo lento. Le prime pedalate sono rallentate. I muscoli si risvegliano. I semafori rossi sono l'occasione per prendere fiato, stiracchiarsi. Respiriamo a fondo mentre ripartiamo. I polmoni si riempiono. L'aria fresca ripulisce gli occhi dal sonno. Le ruote scivolano sull'asfalto e i pensieri riprendono vivaci. Arriviamo in ufficio che il corpo si è svegliato davvero e la testa si è messa in moto, pronti per lavorare. Pedalare di primo mattino è il risveglio migliore. E questa la ricetta del buon risveglio di Filippa Lagerbach, che è in studio con me. Benvenuta. Grazie, buongiorno. Che emozione sentire spiccherato questo testo che ho scritto. Grazie. Modella, mamma, conduttrice, TV e ciclista appassionata. Lo racconti proprio nel tuo libro che si intitola Io pedalo e tu? Esatto, grazie. Sì, ho scritto questo manuale, diario, per spiegare e per incentivare più persone possibile di usare la bici come mezzo di trasporto. Filippa pedale, voi 800 24 00 24 e Filippa aggiunge che pedalare la mattina al risveglio è il modo migliore per mettersi in moto, per iniziare bene la giornata. E per voi quali sono i piccoli riti, le attenzioni, gli appuntamenti, i pensieri che vi mettono di buon umore e vi danno l'energia giusta per affrontare la giornata? 800 24 00 24, potete come sempre seguirci su Facebook, su Twitter e oggi l'hashtag di oggi è Io pedalo e tu, proprio in onore di Filippa. E intanto vi leggo alcuni messaggi che sono arrivati su Facebook sui riti del buon risveglio. Franca ci scrive: un bel sole, qualcosa da fare in giardino, anche solo guardare i fiori. Richard: appena mi sveglio rido. Sabrina: la mia cagnolina Money salta sul letto, mi mette le zampe al collo e mi fa un bacino. Laura: farmi un sorriso allo specchio. E Giampiero dice: vado a correre. Brioche cappuccino, brioche cappuccino, brioche cappuccino. L'importante è non scordarti mai. Filippa, a proposito di risveglio e di riti per un buon risveglio, tu parli di un appuntamento importante, la colazione, che è per te un vero e proprio pasto. Sì, essendo svedese, noi nordici piace molto la colazione, è praticamente il pasto più importante della giornata e quindi mi piace iniziare con una bella spremuta d'arancia, però poi vado giù con il pane, burro, formaggio, triolo, peperone crudo, non so, un po' per voi è un po' difficile forse da digerire, però a me piace tanto. Ci stiamo abituando. Io faccio colazione e tu, chiamate il nostro numero verde, seguiteci su Facebook e su Twitter e se siete in bici magari fermatevi e chiamate in diretta dalle due ruote. Aldo! Aldo! Allora! Aldo! Allora che c'è? Allora abbiamo detto le 8, sono le 8 e 7. E c'è bisogno di gridare così, qui la gente mi conosce. Dai, sbrigati, scendi che dobbiamo anche ritirare il pacco, dai. Vabbè, finisco di mangiare la peperonata e scendo. Peperonata, alle 8 del mattino. Mezzogiorno, toppi morti. Allora, la peperonata, vedi che ci stiamo arrivando, ma a proposito di colazione, qua in studio abbiamo il guru della colazione, il dottor Attilio Speciani, bello, e non solo. Mi piace. Però lei, dottore, intanto lo ricordo, ma è di casa qua, Essere Benessere, specialista in allergologia e immunologia clinica a Milano. Dottor Speciani, il guru, perché lei, io la sto seguendo da anni, ha veramente fatto proprio una battaglia per convincere le persone a mangiare a colazione. Insomma, una colazione non mi ha stupito, la colazione di assolutamente non le piace. Filippa, è una normalissima prima colazione in casa mia, se potremmo condividere la prima colazione con totale tranquillità. È un invito. Inizia così, vediamoci a colazione, mangiamo le stesse cose. E beh, loro lì si vedono solo a pranzo, noi sfruttiamo anche i momenti per la prima colazione. Ma questo è importante perché la prima colazione stimola tutta una serie di meccanismi. C'è proprio un'attivazione ormonale, lo dico specificamente con riferimento a quello che abbiamo prima prima così appena sotteso, su tutti i piani, quindi non solo sull'energia ma sulla volitività, sul buon umore. Sul buon umore posso dire che mi è piaciuto prima il fatto che ben 4 su 5 dei messaggi che sono stati lasciati o sorridono o si muovono. Bello, bello, dai, per, come inizio, come momento del mattino. E la prima colazione deve essere così, devono essere l'energia del sole che entra nella terra, nelle piante, negli animali, diventa la nostra energia. Quindi cosa c'è di meglio che non fare un pasto che deve essere bilanciato? Tocchiamo tre punti. Abbiamo intanto che una prima colazione stimola la leptina. Leptina è un bellissimo ormone che va ci ad attivare, piace anche dal nome, bello, no? Sì, che leptina, e poi deriva dal greco che vuol dire leptos, magro, quindi ci vuole, cioè questo fa bene. Infatti vedete com'è obesa Filippa. perché pedalo. Ma no, perché anche fa la prima colazione, lo dico per tutti, perché moltissime volte si fanno delle prime colazioni risibili cercando di tenere basse le calorie. In realtà la prima colazione, quando uno fa una prima colazione ampia, riduce complessivamente il numero di calorie che mangia nella giornata perché ha meno fame. È un effetto che dura 24 ore, che tiene attivi assolutamente tutti i nostri ormoni, quelli stimolanti generali. Quindi ben venga, ottima la colazione di Filippa, condivido pienamente, c'è uno stimolo ormonale che li segue. Senti Filippa, allora abbiamo visto che mangiando come mangi tu, gli effetti sono noti a tutti, no? Basta vederti. Allora, che cosa hai mangiato tu oggi a colazione? Proveremo anche noi domani. Che ti devo dire? Allora, stamattina mi sono fatta una bella spremuta d'arancia, poi uno di quelli yogurtini, insomma, come si dice, liquidi, sì. Ecco, l'ho bevuto, e poi ho mangiato i crisp roll con un po' di burro e marmellata, e poi un caffè latte. Non vedo i semi oleosi, sì, mancano. Voi intanto che cosa mangiate a colazione, soprattutto come vi risvegliate e pedalate? Filippa pedala, e voi la usate anche voi come un buon risveglio? 800 24 00 24, in un buon risveglio non possono mancare noci, nocciole. Assolutamente, anche perché sono una fonte vegetale di proteine fantastica. Più abbiamo degli studi belli che spiegano che gli oli presenti ad esempio nella noce riducono il declino cognitivo, vuol dire che uno diventa meno stupidello andando avanti con l'età, cioè si mantiene viva la memoria e l'attenzione. Poi dai, manca secondo me in questo momento, ma lo so perché in altre situazioni le colazioni descritte da Filippa sono sicuramente ricche anche di salmone piuttosto che non capita. Di prosciutti, magari una domenica, il sabato quando uno ha più tempo, però quindi le noci, nocciole, mandorle sono una ricchezza assoluta di proteine che sta nel muesli, insomma, che si può mettere sì, sullo però yogurt. il muesli che si mette su yogurt di solito ha una dominanza di carboidrati, invece noi qui c'è già l'arancia che comunque è un apporto di carboidrati oltre che le vitamine, i crisp rolls che sono comunque carboidrati, lo yogurt è bilanciato tra carboidrati e proteine, manca qualche aggiunta di proteine, un uovo sodo, un pezzettino di salmone, le noci, le nocciole, le mandorle, okay. Che sono, così mischiamo il nord e il sud insieme. Intanto tra l'altro nel tuo libro Io pedalo e tu, di Baudo Editore, lo ricordiamo, hai anche delle ricettine di cui parleremo, una mi ha fatto impazzire, poi ve la daremo. Barbara dalla Spezia, Marcello da Salerno. Barbara, buongiorno, benvenuta. Buongiorno, grazie. Niente, ho chiamato perché ho sentito parlare Filippa e mi ha fatto piacere che ci sia qualcuno anche dalle parti famose che difende questo mezzo che è utilissimo, ecologico, è comodo. Io ho viaggiato 10 anni in treno e ho passato vita sui treni a avere ritardi. Adesso che lo posso usare mi sembra una gran bella cosa. Mi dispiace che appunto nella mia città le piste ciclabili, purtroppo non siamo una città di pianura come può essere l'Emilia, quindi ci sono un po' di problemi, e che i pedoni non capiscano che comunque chi usa la bicicletta fa bene anche a loro, insomma, perché se io passo sotto un portico mi sento investire. Quando però mi trovo la gente che mi sbuca sulle piste senza guardare né a destra né a sinistra. Insomma, qua c'è un po', no? Io ne parlo anche nel libro. Che deve esserci il rispetto tra i ciclisti, pedoni e automobilisti. La convivenza all'interno di una città è importantissima. Nessuno ha il diritto di essere padrone della strada. Ci sono le regole da rispettare da tutte le parti. Marcello, buongiorno da Salerno. Benvenuto. Buongiorno. No, io volevo portare un piccolo modestissimo contributo a proposito di risveglio. Sì, allora, io grazie. Da 6-7 anni ho, diciamo, l'abitudine la mattina verso le 6:30 quando mi sveglio di ingerire un piccolissimo quantitativo di peperoncino tritato, non finemente, in modo tale che si possano vedere, diciamo, i semi bianchi del peperoncino, quello essiccato, il classico peperoncino delle nostre terre. Sì. Bere poi, poggiarlo sulla punta della lingua, bere poi un bel bicchiere di acqua di rubinetto fresca, poi andarmene a correre. Il primo effetto che ho è quello di andare praticamente, di andare di corpo, poi mettermi la tuta e andarmene a correre. E questo, e i benefici che ho notato sono incredibili. Io da 6-7 anni io soffrivo di herpes, per esempio. L'herpes viene, ma dura molto di meno. Insomma, fuoco contro fuoco per Marcello, che inizia la sua giornata in modo devo dire con un fuoco. Sì, posso fare un intervento da immunologo. Sì. Lui sta utilizzando la capsaicina, che è la sostanza che è dentro ai peperoncini, che è fantastica. Infatti questa cosa che sta raccontando Marcello è frutto anche di tradizioni popolari presenti in molti, molti spazi. E l'uso del peperoncino quasi come terapia e come stimolo è sicuramente positivo. Non solo, la capsaicina è un modulatore sia delle reazioni del sistema immunitario, sia di alcuni neurotrasmettitori, quindi lavora sia sul cervello che sul sistema immunologico, quindi perfetto. Ma va bene. La stessa cosa non la fa il pepe, diciamolo. Altro che peperone, per cui... qua peperoncino. Sì. È un popolo passionale. Tu lo usi il peperoncino? No. Mio compagno invece sì, mangia quantità incredibili. Per questo ti ha conquistato, però, scusa, adesso non voglio dire, ma... Vedi, perché si allargano, Mariano, dalla provincia di Vicenza, e poi rispondiamo ad un'ascoltatrice che mi scrive, non mi rispondi mai, io cerco di leggere tutto. Mariano, buongiorno. Sì, buongiorno. Ho con estrema felicità di parlare con voi per la vostra trasmissione, per gli ospiti. In particolare volevo dire che sono tornato dalla Svezia domenica sera, sono rimasto per alcuni giorni e ho ancora il sangue che mi bolle dalla felicità di vedere tutte quelle biciclette, tutte quelle persone che vanno in bicicletta, che mi ha veramente stimolato e mi sta portando, probabilmente ci ritornerò perché voglio andare in bicicletta insieme a quelle persone, a quei bellissimi posti. Quindi stregato dalla Svezia. Che bel messaggio. Anch'io sono tornata dalla Svezia, dove il mare e i laghi sono ancora ghiacciati, tanto è che ho portato la mia bicicletta sul mare, facendo una biciclettata breve sul mare ghiacciato. Questa è un'emozione che non si può vivere in tanti altri posti del mondo. Infatti tu nel tuo libro dedichi proprio un paragrafo, perché la bicicletta può mettere le ali, si può trasportare in macchina, solo sulle due ruote. Allora, dottor Speciani, rispondiamo. Allora, carissima Nicoletta, io farei una colazione abbondante, ma poi sono sicura che non riuscirei a mangiare poco a pranzo e meno a cena, quindi che faccio? Ah, perché non prova mai. Allora, esatto. Intanto c'è uno studio bellissimo fatto da Leshan su 84.000 persone, in cui si è visto che quanto più è ricca la prima colazione fatta entro un'ora circa dal risveglio, e bilanciando bene carboidrati e proteine, perché se io mi sveglio e mangio solamente brioche e mi rimpinzo di brioche, ho una tale spinta di innalzamento dello zucchero che dopo poco ho delle fami da induzione dal zucchero. Mentre se io mangio, come ha detto prima Filippa, bilanciando bene proteine, carboidrati e fibra, ecco che quanto più è ricca la prima colazione, tanto meno diventa ricca la giornata intera. Quindi sono dei dati inconfutabili, per cui la ricchezza... Basta provare, ma dicono, no, mangiare la colazione come un re, il pranzo come un principe e la cena come un poveraccio. Assolutamente, questo sì. E poi si pedala. Però noi che siamo ospitali, la scuola salernitana, visto che prima è antica, una delle prime scuole mondiali di medicina, diceva: invita l'amico a pranzo e il nemico a cena, proprio spiegare esattamente questo aspetto. Quindi, pedalare, fare colazione, questi sono i due consigli per un buon risveglio di Filippa, assolutamente in linea con la filosofia di essere benessere. In effetti la bici e la colazione hanno molto in comune. Vediamolo insieme. Risvegliano. Filippa, tu l'hai detto, pedalare alla mattina è un modo piacevole per rimettere tutto il corpo in funzione, si arriva freschi, profumati in ufficio, profumati non lo so adesso quando... Ma io direi di sì, perché uno pensa subito al traffico, a magari le sensazioni poco piacevoli, invece io dico che in bici si può scegliere il percorso, attraversare un parco, mettersi un minuto sulla panchina o in sella alla bici e godersi la natura, perché anche all'interno delle grandi città ci sono delle realtà davvero piacevoli, quindi in bici scegli il tuo percorso, quello più bello. E infatti la colazione risveglia, proprio come abbiamo anticipato. Voglio dire assolutamente questa cosa che è di scoperta recente, perché è del 2004-2005, ed è che con la prima colazione noi attiviamo un particolare tipo di struttura nervosa. Tutti sanno che la tiroide c'entra col consumo di energia, con la vitalizzazione, col peso. Allora, mentre normalmente ci sono degli ormoncini che girano dopo l'effetto prima colazione, la tiroide, se sente una prima colazione, cioè se arriva un messaggio di quella leptina di cui parlavamo prima, che arriva nel posto a stimolare questo, determina, addirittura c'è una via nervosa che percepisce la prima colazione e attiva la funzione tiroidea. Quindi neanche degli ormoni che girano, che forse arrivano, forse non arrivano. C'è proprio una roba, zac, immediata, diretta, che arriva a stimolare la tiroide, quindi vado a confermare che l'attivazione poi del consumo di energia dipende anche dalla prima colazione. Pedalare fa funzionare bene il cervello. Tu scrivi, le gambe si muovono, il cervello corre. E direi di sì, perché si può anche svuotare la testa dei pensieri negativi, lo stress. Non si pensa ad altro che andare avanti. Però poi, dopo un po', inizi a pensare a quello che devi fare durante la giornata. Magari senti un profumo che arriva dalla pasticceria, che passi, quindi ti fermi, vai dentro, compri qualcosa, il pane. E poi vai avanti, vedi una vetrina... Inizi a pensare alle cose belle, inizi a pensare a chi vuoi invitare a cena, cosa devi fare in vacanza, cosa devi fare sul lavoro, però in un modo leggero e che ti stimola, ecco, quindi poi risparmi anche molto tempo. In equilibrio poi, dottor Speciani, in effetti stimolo sul cervello, la colazione è uno stimolo sul cervello, no? Sul cervello. Carburiamo. Assolutamente, non solo, poi l'abbiamo detto prima, l'attività di alcune semioleosi, che proprio sul cervello è una funzione potente di riequilibrio, e poi c'è questo aspetto di stimolo sull'umore che non può essere... La fermo un attimo sui semioleosi per rispondere a degli ascoltatori che mi scrivono: ma quanti semioleosi? Una manciatina, due cucchiai, una tazza, quanto bisogna mangiarne a colazione? La mia stretta indicazione è che la prima colazione è l'unico momento in cui la fame può essere lasciata libera, nel senso che ci svegliamo, mangiamo delle fibre, dei carboidrati, un po' di proteine, aggiungiamo, vogliamo mangiarci una manciata di noci, sono 8 noci, van benissimo, per carità. Non contiamo le calorie del mattino, iniziamo a contarle se dobbiamo usare le noci semioleose come cibo di noia, cioè uno le prende per saziarsi, per accompagnare la birra. Allora ci pensiamo, ma al mattino tranquilli, mangiatene serenamente, tutto quello che ne guadagnate lo consumate nel corso della giornata. E a proposito di consumo, colazione, l'abbiamo detto, e pedalata piacciono anche ai nostri muscoli, e soprattutto pedalare piace ai muscoli di noi donne. Sentiamo cosa scrive Filippa. Non so quanti ci hanno pensato, ma la bicicletta offre un esercizio mirato per il corpo femminile. Si attiva la circolazione, si muovono le gambe tonificando i muscoli. La due ruote ci costringe a stare dritti con la schiena. Muoversi in bici costituisce un vero esercizio fisico. 60 minuti di pedalata bruciano quasi 600 calorie. L'esercizio è soft, basta trovare il giusto ritmo. Ma qual è il giusto ritmo di pedalata? In linea con noi il nostro cardiologo ciclista, il dottor Stefano Aglieri, responsabile della riabilitazione cardiorespiratoria all'Istituto Humanitas di Milano. Buongiorno, bentornato. Buongiorno Nicoletta, buongiorno anche a tuoi simpatici ospiti. È già andato in bicicletta oggi? No, oggi no. Sono andato ieri sera dopo essere uscito dal lavoro in fretta e furia, vabbè, come sempre, in lotta col tempo. Allora, ritmo di pedalata, qual è il giusto ritmo di pedalata? Soprattutto volevo chiederle, esiste una tecnica per pedalare in maniera efficace anche per chi non è uno sportivo ciclista praticante come lei? Assolutamente sì. Dunque è giusto mettere insieme le due cose, cioè ritmo di pedalata e pedalata efficace, perché le due cose vanno di pari passo, nel senso che se noi pensiamo a utilizzare un una bicicletta normalissima da passeggio, ma che ormai è, come tutte, dotata della possibilità di cambiare il rapporto di velocità. La cosa migliore da fare per anche chi è un principiante o comunque per chi pedala per piacere, per hobby, per fermarsi anche davanti a qualche pasticceria, come sentivo dire prima, a fare uno spuntino, la cosa migliore è cercare di avere sempre una pedalata piuttosto agile, quindi lavorando, utilizzando in maniera corretta il rapporto di velocità della bicicletta, anche della bici da città, della city bike o della mountain bike, e con una buona frequenza di pedalata si fa un ottimo lavoro per le gambe, per il cuore, per i polmoni e soprattutto si evita di accumulare troppa fatica nei muscoli che sono deputati a fare questo tipo di esercizio. Quindi pedalata piuttosto agile, frequenze abbastanza alte, rapporti giusti, quindi non bisogna mai spingere troppo, cioè dove spingere troppo, perché questo può essere controproducente. Abbiamo una formula magica? Non abbiamo una formula magica, abbiamo la formula del buon senso, per cui ognuno deve sapersi anche valutare in base a quello che vuole fare, alle proprie caratteristiche. La pedalatina da passeggio va benissimo in tutti i modi, non c'è nessuna controindicazione. Per chi vuole fare una pedalata un po' di più, senza bisogno di andare a fare le grandi salite o chissà che cosa, allora lì il buon senso deve essere: non devo mai affaticare troppo i muscoli delle gambe, devo sapere che percorso più o meno ho in mente di fare come lunghezza, sapere che devo gestire questa lunghezza in una maniera adeguata e quindi buone frequenze di pedalata, non pedalare lentamente con uno sforzo eccessivo da fare sul pedale per riuscire a procedere. Ecco, questa è una regola generale. Questa è la regola generale che noi passiamo anche. Molto generica, ma comunque che funziona. Essere e benessere. Passeggiando in bicicletta accanto a te. Pedalare senza fretta la domenica mattina. Tra i capelli una goccia di brina, ma che faccia rossa da bambina, fai un fumetto respirando, mentre mi sto innamorando. E noi pedaliamo per un buon risveglio, questo è il consiglio di Filippa, ma soprattutto per riappropriarci del nostro tempo, perché la bici fa anche risparmiare tempo. Ecco allora che riusciamo a fare quella colazione che molti di noi trascurano proprio per mancanza di tempo. Ma diciamo anche perché fa risparmiare tempo, perché uno non deve cercare il parcheggio, va direttamente dove deve andare, no, non rimane imbottigliata nel traffico, non deve cercare il tagliandino per il parcheggio quando finalmente l'ha trovata. Quindi uno pensa che la bici ci vuole più tempo, invece non è vero, almeno all'interno delle città. E poi ti fa anche riappropriare di quel tempo per te. Sì, perché non devi più andare in palestra, perché hai già fatto un po' di sport, un po' di movimento, e quindi quel tempo che altrimenti dopo il lavoro è già molto stanco, dovevi andare in palestra per muoverti, lo stai facendo naturalmente in sella alle tue due ruote. 800240024 se volete intervenire. L'hashtag di oggi è Io pedalo e tu, ma oggi vogliamo parlare proprio anche dei riti del buon risveglio, partendo dalla bici. Chi pedala al mattino, fare attività sportiva al mattino, tra l'altro è comune, bici o non bici, dottor Speciani, è un buon modo per iniziare la giornata. Assolutamente, non solo mantiene questa attivazione, quando prima ho detto che la prima colazione deve essere fatta entro un'ora dal risveglio, a meno che uno non faccia attività fisica. E quindi se uno si sveglia e va a correre, come ad esempio faccio io, questo può essere fatto, e quindi la colazione va fatta sicuramente dopo. Se invece l'attività è un'attività leggera, fatta a metà giornata, non pesante, non facendo le ripetute di corsa o in bicicletta che sia, allora è bene prima fare una colazione, lasciar passare un po' di tempo e poi usare delle proprie energie. In genere io dico che l'attività intensa fisica, quindi non quella respirata morbida, come dire, va fatta con le scorte piene e lo stomaco vuoto, per evitare di sovraccaricare. Scorte piene vuol dire che bisogna aver mangiato bene già dalla sera prima, oppure facendo una colazione giusta. Com'è l'ananas? Possiamo sentire se è l'ananas, vero che brucia il grassi famoso come ananas. No, l'ananas non brucia i grassi. L'ananas no. È un ottimo elemento, contiene delle sostanze enzimatiche naturali che aiutano a digerire. Okay. Per questo quindi diventa un elemento positivo. Quindi va bene dopo il pasto? Va bene, come fanno? Uno, sì. se ci si affida un po' alla tradizione popolare, come viene fatto? Cioè viene, ad esempio, le Hawaii cuociono con l'ananas dentro, per cui quando uno poi mangia delle proteine, qui trova dentro l'ananas. Fatto, i brasiliani ti preparano le carni, ti danno sempre l'ananas in aggiunta. E in Svezia la mettiamo sulla pizza. Esatto. Veramente? Sì. Oddio. Allora, tra l'altro, il tuo libro mi è piaciuto molto perché è ricco di suggerimenti molto utili e molto positivo. Sì. È un po' come sei tu. Perché sì, basta io tendo guardarti, di essere positiva nella vita e cavalcare sempre l'onda della positività. Credo che così il sorriso continuerà a crescere tra le persone che incontri. Vedi, è contagioso. Semina giusto. Queste cose danno. E poi non costa niente. Assolutamente. Filippa, in un tuo paragrafo tu lo dedichi tempo risparmiato, tempo guadagnato. Allora vorrei capire con te che cosa fai nei momenti in cui riesci a risparmiare tempo, quando hai 5 minuti di tempo per te. 5 minuti sono pochi, ma possono essere anche tanti se uno si siede su una panchina in un parco o semplicemente a casa quando arrivi senza fare niente. Respirando, magari con gli occhi chiusi, pensando a quello che hai fatto durante il giorno, quello che devi fare, o semplicemente a nulla. Fare silenzio e sì, sentire ascoltare i pensieri. Che il silenzio. Mezz'oretta di tempo? Forse un bagno leggendo un bel libro. Bagno caldo? Bagno come caldo. Volevo chiederlo a lei, dottor Speciani. Tra l'altro adesso dalla Francia arriva questa moda di fare al mattino un bagno caldo, molto caldo, per un po' rimettere tutto in moto, e sembra che abbia un effetto anche un po' di risvegliare il metabolismo. Lo suggeriscono è la lobby degli angiologi, che così poi lavorano, no? Dei guru attenti. Qui in Italia devo dire che il concetto del bagno caldo, siamo un paese che soffre in genere di vene, di varicine, di cose del genere, va visto con attenzione, nel senso che il concetto di alternare, e su questo io sono molto più favorevole alle scuole nordiche, nel senso di alternare il freddo e il caldo, quindi sono meccanismi che sì, non creano stress ma generano un movimento, un'attivazione. Un bagno bollente al mattino sicuramente rilassa, e noi invece abbiamo bisogno un po' di tonicità e qualche perplessità me la genera, per cui è qualche cosa che merita di essere valutato con attenzione. Il bagno potrebbe anche essere un po' poco ecologico. Brava, perché ogni tanto si usa troppa acqua, doccia e si spegne l'acqua e ci si insapone e via. Renata da Savona, Giulio da Brescia, Rodolfo da Milano, 800 24 00 24. Tu mi hai portato due libri. Sì? Uno me lo tengo. Ah, due libri miei? Sì, sì, io detto, no, ho uno, scritto solo uno. uno possiamo omaggiarlo a un ascoltatore di Radio 24? Certo, molto, molto, con tanto piacere. Renata, buongiorno da Savona. Dovrai scegliere tu la definizione, il rito del buon risveglio che più ti piace. Renata, buongiorno. Buongiorno. Benvenuta. Buongiorno. Grazie. Allora, io ho seguito la vostra trasmissione, molto interessante. Siccome nella mia cerca di amici mi prendono tutti in giro perché faccio una colazione molto abbondante, dice, sì, ma quanto ci metti a mangiare tutta sta roba? In effetti credo di fare una colazione veramente valida. Ve la spiego in un attimo. Mangio, sì, subito un kiwi, poi in una scodellina, in una coppetta, metto uno yogurt di soia con due cucchiai di muesli, soprattutto fiocchi di avena, della composta di frutta cotta, che può essere o di pesche o di prugne, che faccio io durante l'estate, poi sì, mi servo. Poi metto un cucchiaino di semi di sesamo e di lino schiacciati, sì, una noce intera appena sgusciata, tre mandorle, e tre nocciole, e poi metto basta, e poi non mi ricordo basta, e poi io direi che c'è tutto. Lei una è perfetta. Di pane di camut con barbetta. Senta, ci manda la sua foto, Renata da Savona, perché con tutti questi ingredienti che sono tutti preziosi, che arrivano suggeriti anche dalla nutrigenomica, Renata deve essere uno splendore. Ma guardi, in effetti mi fanno tutti i complimenti. Vede, mi mandi la foto, Renata. Anzi, Renata, però il mio dubbio adesso è che siccome frequentemente Renata, devo andare a sentire le informazioni sul traffico. Vada veloce sul suo dubbio. Scusi. Ma possono provocare l'herpes. Possono provocare l'herpes. Escludo nella maniera più totale. Renata, vada tranquilla col suo mappazzone, che mi sembra che il dottor Speciani approvi. Essere e benessere. La due ruote è ecologica. Fa risparmiare tempo e denaro. È ottima per il fisico e la salute. È ideale per socializzare. Avvicina alla natura e fa scoprire il mondo da un punto di vista nuovo. Sulla bici non c'è spazio per stress e cattivi pensieri. Si pedala con la testa alta e lo sguardo rivolto avanti, oltre, al futuro. Per fortuna che ho la bicicletta e almeno mi allontano un po' dall'autostrada del sole o dal raccordo anulare o dalla fila nel metro. Tornerò solo quando sarò stanco un bel po'. Così scrive Filippa nella quarta di copertina del suo libro. In linea con noi, vediamo se ci sono altri ciclisti o fautori di bicicletta. Giulio da Brescia, buongiorno. Buongiorno, grazie per l'accoglienza. Grazie a lei, mi dica. Dunque, con mia moglie abbiamo fatto il viaggio di nozze in bicicletta. Dove siete andati? In Irlanda, zona Connemara, costa ovest. E siete è stato un viaggio che è durato quanto? Dunque, siamo stati via complessivamente 12 giorni. E ci siamo trasferiti in aereo in Irlanda. Sì. E lì, con le nostre biciclette, abbiamo girato la zona. Non molti chilometri al giorno, ma questo ci ha dato l'opportunità di gustare a fondo la natura selvaggia di quella zona. Quindi il consiglio di Giulio, arriva a maggio, che è tempo di nozze, di matrimoni, di viaggi di nozze, prendete la bici con la vostra sposa e via. Romanticissimo. Romanticissimo. Giulio, grazie. Rodolfo da Milano, buongiorno, benvenuto. Buongiorno. Eccoci qua. Buongiorno, io volevo porre una questione. Diciamo che io ho dei problemi di tipo di masticazione. Diciamo la colazione, io al mattino mi faccio dei frullati centrifugati. Cosa potevo associare a... Dottor Speciani. Intanto noci, nocciole e mandorle possono essere sfarinate, tritate tranquillissimamente. Dopodiché anche chiunque avesse dei problemi di masticazione su frullati, latte, yogurt che possono essere usati, ecco che un uovo sodo, ad esempio, come fonte proteica diventa uno degli strumenti più facili. È una delle cose classiche che possono essere al limite anche sbriciolate quasi con una forchetta e mangiate serenamente. Quindi anche i problemi di masticazione possono essere superati. Dai coraggio. Allora, a quasi conclusione di questa puntata non ci resta che dire: compratevi una bicicletta. Ed è anche il titolo di un libro di prossima uscita. Qua con noi già l'autore, uscito. Già uscito, Federico Del Prete. Ciao Federico. Buongiorno a tutti. Un libro in cui tu insegni a uscire dalla dipendenza dell'automobile. Sì, è perché il punto è questo. Noi possiamo dire quanto vogliamo: andate in bicicletta, compratevi una bicicletta, ma se in parallelo non si fa qualcosa per togliere un po' di traffico automobilistico indiscriminato dalle strade, diventa difficile poi godere dei vantaggi della bicicletta. Come si fa a liberarsi dalla dipendenza? Beh, probabilmente pensando prima di tutto agli altri, e cioè se io esco di casa e accendo la mia automobile per fare meno di 10 chilometri, vuol dire, cioè, siamo sicuri che questo aiuta veramente il mio ambiente, la mia città e le persone che mi stanno intorno, compresi i miei bambini e le persone che amo? Forse no. In realtà possiamo dire che prendere per così breve distanza un'automobile nello spazio urbano, occupando spazio, facendo rumore, non parlo né dell'inquinamento né della perdita di salute che abbiamo, è davvero un fatto su cui vale la pena, diciamo, riflettere molto bene. E per vincere la paura che molti hanno, soprattutto nelle metropoli, di andare in bici? Beh, vale buttatevi sempre. Buttatevi o mettetevi il caschetto, fate attenzione. E l'idea che bisogna avere in mente buttandosi è: la strada è di tutti. tutti ed è, non è soltanto delle automobili. Sottolinea come, anche Filippa Lagerbach nel suo libro. Come ha scritto naturalmente poi anche diciamo Filippa. Anche che chi va in bici poi quando si mette in macchina guida in una maniera diversa. Sì, diciamo è il mondo che cambia. Io sono nato a Roma, ero un motociclista sfegatato, è questo che in sostanza racconto nel mio libro, la storia di una conversione. Arrivato a Milano ho lasciato la motocicletta non per motivi ecologisti o salutisti, ma semplicemente perché sui brevi tragitti di Milano la mia motocicletta si rovinava. Poi per fortuna... Quindi per amore della bici sei diventato... Per amore della moto sei sono diventato ciclista. Un ciclista e adesso la mia motocicletta giace con un lenzuolo sopra e non la uso praticamente più, anche se qualche la tengo gita fuori per passione. Magari. E naturalmente avendo due bambini piccoli posseggo anche un'automobile che marcisce su un marciapiede. Tutti in bici. Tutti in bici. Allora, io prima di salutarvi e di ringraziare i miei ospiti, un'informazione. Venerdì scorso, durante la puntata dedicata alla scrittura, abbiamo invitato voi a mandarci un testo con un incipit vincolato di 120 parole. L'incipit, lo ricordo, è "La primavera tardava ad arrivare, ma alla radio". Molti di voi ci hanno scritto, grazie, siete stati fantastici, ma se ancora non l'avete fatto siete ancora in tempo, sino alla mezzanotte di venerdì. Il dottor Luigi Ballerini, psicoanalista freudiano, scrittore, esperto di scrittura, che è intervenuto in trasmissione venerdì, ne selezionerà 5 tra i racconti che saranno arrivati. L'obiettivo di questo, che è un esercizio di benessere, niente altro, è provare a usare la scrittura per tirare fuori pensieri, emozioni, ricordi, sensazioni, stati d'animo, a cui per una serie di ragioni, non andiamo a indagare quali, noi non diamo voce, accantoniamo. In questo senso io credo che scrivere, anche solo per il fatto, come ricordava Filippa, di prendersi dello spazio per sé, sia un fantastico integratore per il nostro benessere, proprio come le noci e i semi oleosi del dottor Speciani. Allora io vi aspetto, essere benessere at radio24.it, 120 parole con un incipit, "La primavera tardava ad arrivare ma alla radio". Per oggi è tutto, Filippa Lagerbach, grazie di essere stata con noi, grazie, io pedalo e tu, Federico Del Prete, compratevi una bicicletta e mangiate le noci, mangiate le noci. Radio 24, la passione si sente. Essere e benessere.